La vita che cos'è? È attitudine a vivere. È il verbo dei profeti, la musa dei poeti. La palla di cristallo svela dubbia convinzione, e la contraddizione smentisce ogni visione. Però io sono certo, il vero in fondo al nostro cuore, devastante come l'errore, sincero come l'amore. Se precludo il consumismo e la modesta borghesia, l'illusione artificiale è preludio all'agonia. Perché c'è qualcosa dentro il qual si voglia prosperare, lo si deve preservare, lo si deve valorizzare. La morte che cos'è? È forse un cigno nero, la fine di ogni cosa, l'imprevedibile destino. L'orgoglio e il pregiudizio tolgono senso alla ragione, concetto peculiare, ma il cuore poi fa male. E per l'onor del vero sono certo in fondo c'è, che non ci sono se, né scuse né perché. La palla di cristallo è un barlume di follia, e la contraddizione dilaga in ogni via. Però io sono certo, il vero in fondo